Santiago 3, uscita 3-4, dai. Sì, lo so, perché qua è in zona d'ombra un po', ma in zona aperta già vi va bene. Cos'è, direzione Porto Torres? Sì, allora, tanto verso la rotonda adesso, mi faccio un giro alla rotonda, mi fermo un po' di lì, mi mangio qualche caramella e poi vado verso Porto Torres e torno verso Sassari, dai. Andavè. Lì com'è il traffico invece giù? Beh, qua già ce n'è di traffico. Beh, ci sono un bel po' di macchine davanti a me. Bene. Hai beccato controlli per caso in giro? No, negativo. Ah. Adesso sicuramente, visto che è domenica, la gente si sposta magari da qualche parte, sicuramente lì agli punti saranno sicuro. Sì, ma io sto passando dall'altra strada proprio per quello. Cosa ti stavo dicendo? Così mi senti, io ho il microfono adesso appoggiato sulla gamba, così non mi vedono parlando, capito? Ehi, allora ti ascolto bene. Così non mi vedono nemmeno, io guido tranquillamente col microfono sulla gamba e mi vedono solo parlare, potrebbe essere anche un viva voce, cosa mi sa niente? Claro che sì. No, va benissimo, è comprensibilissimo. Cava, là. Certo, vicino alla bocca sarà un'altra storia, vero? Vabbè, si sente anche il rumore di fondo dell'abitacolo, dai. Però già va bene. Cava. Adesso mi sto andando verso la rotonda, così mi dici come ti arrivo da lì. Eia. Dai, fai una chiamata appena sei arrivato, dai. Cava. Stai facendo qualcosa? Sto smanettando roba al computer. Ah, cavagare. Se non c'è nessuno, ci siamo solo noi. 11:30. 11:20 per esattezza, dai. Già è presto, dai. A Gandalluna, mangiare. C'è tutto il tempo di andare anche a Porto Torres. Eia. Qua ci sono camperi in giro, eccetera. Tutti ne approfittano, tutti. E i camperisti come vedono il sole cominciano a uscire. Come le lumache. Allora, le lumache escono con la pioggia, però. Però escono. Ci sarà anche Roberto oggi in giro col camper, sicuramente. Può darsi. Ma non ce l'ha il baracchino nel camper, Roberto? Non lo so se l'ha rimessa, ce l'ha messa. Ha rimpianto, però. Ok. Adesso sei sceso a 3 di segnale, già. Ehi. Dai, comunque riesco a tirarti fuori ancora, dai. Adesso sei sceso ancora, sei quasi arrivato ai QRM. Copiato, capito, sì. Saranno tutti lì come le tirighette al sole. Addirittura si è messo anche il colpa lì di nuovo come l'estate. E sulla niente di bevo, fare di più. Primi assaggi di primavera. Io non c'ho un posto per parcheggiare, lo sai. Non c'è un posto per parcheggiare la macchina. Poi con gli ultimi lavori che hanno fatto sicuramente la caridai. Invece di migliorare, secondo me hanno peggiorato tutto. Abbiamo fatto tutti i parcheggi. Che radio c'hai in macchina già? Il 9.8. Ok. E il microfono, il suo originale? Zappa. Bene, dai. Comunque, a parte il segnale che è calato, comunque riesco sempre ad ascoltarti, dai. Con l'antenne più performanti, mi hanno 5, no? C'è anche un'altra. Vabbè. Questo smitter è anche un po' tirchio, quindi mi limito a farti la lettura originale di quello che è vero. Sicuramente magari c'è qualche cicci in più, però preferisco dirti quello che è vero. Qui si è B da 5 a 6, dai. Lasciali fare. E allora ti conviene andare direttamente a Balai. A Balai sono andato infatti. Sono arrivato al Balai, adesso vado verso Balai. Speriamo che ci sia qualche parcheggio lì di fronte alla chiesa Balai. Mi dicono che c'era il parcheggio lì, a meno che non abbiano fatto danno anche lì. No, già. Perché c'è, ma che poi da lì in poi la strada è chiusa, sì, si entra dall'altra parte, già mi ricordo. Ehi, adesso sei sceso a 2, 2 e 3. Ehi, adesso io l'ultima volta, cioè, quando l'ho sistemata l'ultima volta ho puntato il radialino verso sud. Oh, yeah, ogni appento. Ehi, fai una chiamata quando sei a Barai, dai. Sono rientrato Gianni, ci sei ancora? Io mi devo assentare per un po' perché devo iniziare a preparare qualcosa per pranzo, dai. Quindi non sarò costante, dai. Ogni tanto mi avvicino alla radio, ok? Eia, che c'ho il sughetto sul fuoco. Eia, buona Reddy. Buona Reddy, anche io sì. Ne ho nostalgia, infatti in prossimi giorni mi attrezzo, dai. Dai già, ci sentiamo dopo casomai, ok? Andava. Maro, prova 1, 2, 3, mi senti bene? Dove sei? In giro. A Pratamo andende. E tu spingi. Se non ti fermi, sei da 5 a 7. Pieno di macchine, tutto parai, tutto pieno. E conto di migrazione, la gente può ferma, va, mi fermo qua, se non c'è parcheggio metti di nuovo le macchine. Qua dovrebbe essere il segnale giusto, va. Sant'è rotto, Arif, così mi sono più assembramenti. Passeggiando le persone, sono distanti una dall'altra, non sono, almeno che al bar, ecco, da qui non lo vedo, c'è anche il bar aperto, e quindi è ritornato anche quello che per Pania, la rotonda attore, e se n'è andato, diciamo, adesso ha ripreso, sta rifacendo di nuovo il Pania. Ehi, no, già stai arrivando bene, non so se a me mi colpi bene, io sono sempre col Gracci e basta. Arrivi bene, non ci stanno problemi. Arriva bene anche il profeta, per avere l'antenna che ha, arrivava di radio, era sparato, il segnale non riusciva a guardarlo perché stavo camminando, però la radio era una bomba. Ehi, già, arriva bene Gianni qua, non c'è problema, vabbè, comunque. Ha una buona posizione, mi ricordo che lì abitava Salvatore Branca, quindi in quella zona arrivava molto bene. La radio com'è già? Buona? Ottima, non buona. Va bene, dai, già funziona bene questo gas. Meno male c'è un baracchino che va bene, dai. Gli altri li ho tutti dati. E tu non mi volevi dare retta? Vabbè, io prima non potevo fare perché non c'avevo spazio, adesso lo spazio c'è e quindi me lo tengo ben stretto. Ma il DAC, dato là? Sì, venduto il continente. Cane morto, che te l'avevo chiesto io. Già, mi hanno fatto un'offerta che intanto tu non me l'avresti comprata, mi hanno dato 500 euro per il DAC. Già va bene allora. Una bella radio quella. Te la potevi tenere almeno quella del Galaxy. No, già, mi tengo solo, ho dato anche tutte le altre, tutte a questo collezionista. Ho venduto tutto già, non c'ho più niente, ti mando la foto, non c'ho più niente. La scrivania libera. E poi la rimanenza l'ho regalata a Claudio che aveva ruggito. E perché questo colpo di testa qua? Perché devo traslocare già da qua, non ne voglio più tante radio, ma ne tengo due e basta. Non la capisci la radio? No, assolutamente. Sì, vabbè. Senti, va bene così, tanto lì. Tutto il resto era... non era... è che siamo noi, siamo fissati, ci piace quello ce lo prendiamo, ci piace altro ce lo prendiamo, poi alla fine vedi, ti vedi di nuovo tutto. No, ho già provato questo, me li ha valutate bene, li ho venduti. Mi tengo, ti ripeto, solo il DAC, il 430 ancora è al centro assistenza, quando arriva mi tengo quello lì e il DAC e il Galaxy e basta. No, non ho più spazio come prima, già, capito, non posso impegnare un'altra stanza, capito, quindi sarà come prima, come vecchi Torino, una radio e basta. Intanto guarda, per il traffico che c'è, per la gente educata che sta entrando e sto sentendo, per carità di Dio, io come hai visto ogni tanto me ne vado sul 30 a chiacchierare, perché sul 10 c'è sempre gente che disturba, che è veramente maleducata, quindi non mi interessa più. Io vado dove c'è gente, se non c'è gente sul 10 passo dove c'è gente, non c'è problema. Non lo so di che cosa ti stia riferendo, maleducata, però io la verità, ieri in cielo ce l'avevo perso, c'era altra gente, erano tranquilli, non erano... A meno che ci siano entrati quando ci dico io, non c'ero. No, dei nostri maleducati, gente maleducata nel senso che entra a disturbare, capito? L'altro giorno c'era questo fischiando, ruttando, facendo pernati e già, cioè ne sono stufo, capito? Quindi mi sono andato sul 30, Massimiliano, Antonio e Tino, ci abbiamo fatto una chiacchierata, però già lo so, anche ieri c'era gente sul 10. Io ero sul 30 che stavo facendo le prove con Tino, ma per carità, non è quello il problema, è che basta, cioè... Non fa, capito, non fa, quando c'è gente così io mi sposto, non sto lì a girarmi le scatole, a bisticciare con la gente, tutto qui, solo per quello, per carità. Sempre ne sta arrivando di gente, bambini, con carrozzine, questo, per casa, niente, niente, niente. Buona giornata, mia figlia si è andata ad Alghero lo stesso, è andata via adesso. Sono andato al ghiero a mangiare, a farsi un giro in spiaggia, capito? È così. Vabbè, mi approfitto a tutti questi giorni di pioggia che ci sono stati, adesso che c'è il sole. Aspetta già che mi sono al telefono. Attenzione Gianni, mi senti? Attenzione Gianni, brecco! Ciao Gianni, sono Bruno, sono in macchina, così ho detto, ma visto che c'è un attimino, approfitto a salutare. Sono Bruno, io sono salito adesso dalla rotonda già. Bruno. Sì, ti ascolto forte, ha già niente, sento basso, siccome ho detto sempre a salutarlo, siccome c'ho questo microfono questi giorni che funziona male, ho detto esci a vedere se mi sentono, se si è ripreso questo microfono. Sì, sono in macchina, ho Gianni, il fuoco ferro a Pratamora. Ero lì al camper io, guarda dove c'è il camper, io ero lì un attimo fa, cioè mezz'ora fa, dai, ero al camper, hai visto che c'è il camper bianco lì? Lo so, dai, continuano gli amici. E in questo momento mi trovo, sono in campagna qui a Porto Brandino, ora non capa qua, dammi, avvicino la tua doccia. Ciao Gianni, buongiorno. Ciao, c'è Bruno. E basta, stavo a Porto Brandino. Avanti a te Bruno. Io, ok, beh, io sono in macchina, così, adesso, siccome c'era un microfono che funzionava male il giorno scorso, un po' prefissato che mi avevano dato, e oggi ho detto rientro col microfono normale per vedere se sto uscendo, perché quel microfono là faceva tutti i fischi, per cui basso basso meglio di niente. Ah, va bene, tutto il fatto sta bene, non è un problema. Gianni magari uno dei due si è fermato, avanti Gianni, ti lascio mai che poi io rimango in corrente, sto facendo una cosa, sto dando una roba, a dopo magari, avanti Gianni. A te ti aspetto benissimo, bella sera la modulazione, dagli 5, e siamo come segnale che da 9 a 9 e 10. Allora, questa antenna non scherza. Scappa, già va bene, quelle antenne vanno benissimo qua. Non so se tu la sei più prima, Bruno. E adesso sto salendo verso il monte, probabilmente poi mi sentirà un po' meglio. La radio basta, avevo comprato un preamplificato l'anno scorso da un amico, mi ha messo lo spinotto, però è peggio di questo, fa fischi e fiaschi, adesso questi giorni lo faccio controllare per migliorare un po' la radio. Avanti Gianni, ho un preamplificato della ZG, usato che mi ha dato un amico CD, mi ha messo lo spinotto, l'ho provato ma fa molti fischi, per cui non lo sto usando. L'avevo preso per migliorare la radio, invece con quello esco peggio di questo. Stava parlando Gianni? Ciao Gianni, mi senti? Sono salito adesso, sono arrivato adesso in via Giovanni Pascoli. E già lo so, ma io sono tutti i giorni, io tutti i giorni sono andato a camminare per la Zamora e questa mi è facile, faccio un po' di chilometri a piedi tutti i giorni. Oggi è una giornata stupenda, tutte le mattine scendo io, parcheggio lì dove c'è il campo, dove c'è il campo grande, però non quello piccolino, e passa a piedi. Senti, adesso salito, sono un'oretta fa, non so, un'ora fa. Infatti adesso ti sto contando molto più forte, già, molto più chiaro. Ma io sono arrivato adesso alla veloce. Mi hanno venduto e mi ha piazzato anche il jack, però deve essere che è questo spinotto, è piazzato male, e fa un bel fischi. Adesso piuttosto che un attimo io stacco questo microfono e attacco l'altro. Non lo so, però quei microfoni a me non è che mi piacciono tanto, infatti io li ho verdicciato, sia il tassino che era giallo l'ho fatto nero, il punto dove si appende l'ho fatto nero e il pulsore l'ho fatto nero, non mi piaceva, sembrava un giocattolo e l'ho tutto verniciato di nero. Ascolta, adesso sto trovando quel microfono lì, perché è rotto? Te l'avevo messo prima per cercare, però mi hanno detto fa fischi. Sta innescando Bruno adesso, così sta facendo. E allora, vediamo, forse l'ho messo a minimo. Prova a vedere. L'ho messo a minimo, ma deve essere che lo spinotto l'hanno collegato male. No, si deve essere staccato qualche filo blu e non fa bene contatto, perché stai uscendo con le pernacchie. Adesso quando voglio fare un discorso attacco questo microfono e mi faccio le pernacchie. Ascolta che lo tolgo, adesso quando trovo l'amico glielo faccio ricontrollare. Ok, aspetta. Sì, ok, questo sarà più basso, ma almeno non fa tutto quello scarico. Prova a toccarlo dove c'è lo spinotto, Bru. Oh, lo sto toccando, è un casino. Quando premo la pulsante, fa fischi, ti sento anche dentro la macchina, fischi, capito? È un casino. Non posso, adesso qui, questo mese che lo faccio. Poi ho comprato la... mi è arrivata la... con la boomerang per... riservato, l'ho piazzata e funziona male, l'ho tolta, adesso lo sto controllando, se ne sta rilassando, lo stacco dove c'è la piede, ed è una posizione di plastica, dunque non posso raccontare, la mano non la lascia, è una posizione di plastica, dunque l'ho smontata nuovamente, adesso in questi giorni me la sono piazzata, non è, andavo da casa, credo di sia un po' meglio. Le stazionarie bisogna misurarle blu e controllare come hai sistemato il radiale, quello che va puntato, quello lì lo devi chiedere a Gianni Lubrofessa, che lui esce un bel forte con la boomerang, l'ha sistemata bene. No, ma io non l'ho toccato, io credo che quello lì sia tarato così alla sua casa, capito? Lui è una taratura di alato perché è messa, per cui quello lì tarato non l'ho toccato. Però diciamo che tutti i giorni la stanno a piazzare e poi vediamo. Ho anche comprato un rosmetro, ma questo rosmetro è diverso da quello che avevo io. Quando controllo le stazionarie, guardando che se lo vediamo io, mandando a fondo scala lago e poi cambiando l'interruttore, ma cazzo non va a fare quello giusto, non è un casino, non è la stazionaria manetta, capito? Ho capito. la sta bene. Sì, fatto da Graziella nelle curve, nella curva che continua sempre, quella curva che hanno fatto è proprio losca, sembra che sia finita e continua sempre questa curva. Sì, una cagata l'ho fatto, perché passava a fare un doppio senso, trovavo il sistema, non avevo sentito. Allora, se non ho niente, devo fare 3 km di curva per arrivare nuovamente al punto, ma a distanza di niente, loro non lo so. Hanno fatto tanto cose qui per far rientrare, ma no, adesso in questo periodo va anche bene. Ma che tanto, quando si incasa con la cassa di temporario, sono in curva, è un casino. Dove sei adesso tu, Bruno? Allora già ti vedo, mi sto passando io. Sto passando. Io sto entrando. Sto entrando dentro perché. Ma il rifornitore è quello di fronte a Via Chiarini, sta dicendo? Via Pirandello. No, non ci sono passata ancora. Io passo a fianco perché prendo quella stradetta che va a casa, capito? Si vede prima l'antenna di me, è vero? L'antenna, quella lì è come una mano, fa della macchina, prende bene da tutte le parti. Grazie per il controllo, allora se ti avessi accorto che nel casino ho fatto la comunicazione là, perché certo, non è male, anche se passo, se stiamo andando all'originale là, adesso questi giorni li ho fatto ricontrollare, quello lì, però li facevano io, che non l'avevo voluto fare, no, già da quei tempi già li facevo di questo, non è che... Ok, ci siamo. Ehi, ciao Bruno, questo qui non è basso, si sente molto bene la radio, è molto presente, non è basso. Si sente abbastanza bene, forse è meglio dell'altro. Ma quello lì l'ho voluto appena per vedere, se migliorava per la zona, perché molte volte mi diceva, sotto basso, sotto basso. Allora la dico, provo il microfono, se lo vuoi dire, vengono. Però se mi sono chiesto, quando mi sono un finocchio, sono stata da te qui, se io non ho capito fare io. Ciao ciao Bru, buona carica, sarà qua. Gianni? Che? Benito, buongiorno, buona domenica. Ciao Benito, buona domenica anche a te, dai, sono di rientro a casa. Ero a Plattamona a farmi un giro, pieno di gente, come l'estate. Vabbè, la gente esce, no, rubato esce. Oh, la trampenna, vabbè, la radio com'è? Buona, buona. Vabbè, adesso vediamo stasera quando entrano gli altri. Che appena hai messo? by Luca Master. Copiato il gas. No, che altro ne hai messo per lì? Quello aveva fatto lui. Ah. Sette per. Dove sei? Guarda, 1, 2, 3, prova, prova, prova, fa, fa. Va bene, allora. La radio non fa, ma no, no, no, no. Attaccata la ringhiera, adesso prima era leggermente più bassa del tetto, va. E adesso ci sono 5 metri di palo. Adesso è su, su. Comunque tu sei anche a vostro, radio 5. Positivo, ma sta arrivando benissimo. Infatti. Come quello che sto usando io, se c'è ancora, la staccata da mappa. Staffa, guarda, staffa. Ciao ragazzi, buongiorno, scusate che ho il telefono. Ciao Beni. Ehi Gianni, dove sei già? Ah, si è assassa, è fatta giù il tuo cazzo. 9-5, giù te, dove sei? No, no, pensavo che era fatta ora, cosa cazzo vuoi, l'aereo? Va bene, va bene, dai. 9-5, abbondante, radio Super 5, benito, Santiago 9, quasi, già va bene, dai. Non lo so cosa hai fatto prima di Santiago 5, prova Beni. Forse ho parlato anche sopra a Gianni, scusa Gianni. Adesso ho messo la lampada negli affatti. Non ci arrivi a passare Gianni, non ti preoccupare, Gianni dalla macchina 9-5, quasi più 10, 4, 6, Santiago 8 e mezzo, quasi 9. Caffa. E poco fa cosa stavi usando che sei sceso a 5? A 2001. Ma noi che hai tutto questo incremento, cioè con la 2001 arrivi Santiago 5. Con l'antenna che ti hanno fatto Santiago 8 e mezzo. Baltran. Così è. Così segna questa radio. Altro non ti posso dire, mi sembra molto poco l'incremento. Perché se con l'antenna di macchina arrivi 5 e con l'antenna esterna arrivi 8. 8 modulato 8 e mezzo, sì. Dovresti arrivare almeno 9, 9, 10. Ehi, già, va bene. Così è già, accordato, accordato. Non so, io beh, sto dicendo quello che vedo, non è che sto andando col Galaxy, abbastanza preciso lo strumento, fai un incremento con l'antenna della macchina Santiago 5, con l'antenna grande 8 modulato 8 e mezzo, non arrivi a 9, capito? Mi sembra un po' pochino, mi sembra, e poi non lo so, non può darsi pure come l'hai piazzata, dove sei, ma per la mia posizione ti vedo. Non so cosa dire, io ho portato anche più altro le cose, infatti a 1 e 6 stazionaria, provo, a 0, a 10, no, c'è anche picchi negativi, scendi da 8, scendi a 6, non so cosa dire, avanti. Benissimo, alla grande, io ti sento benissimo qua, ciao, buonasera, ben ascoltato. Se si riesce, sei 9 più 10, radio 5. Alla grande, con quel microfono lì la stai usando, quello da tavolo. Ehi, ehi, scusa, ci avevo, mia moglie stava cercando una presa per il phone. No, sta andando benissimo, vediamo un po' se ti ascolta Benito. Benito, senti a chiodo. Santiago 5, radio 5, perfettamente. Non c'è problema Claudie, figurati, dovere. Voi me li avvelenate e a voi li ho regalate. No, non c'è nessun problema, io non ne faccio più niente. Capito? Quindi mi ho tenuto l'indispensabile, sennò non c'ho più spazio qua. Stiamo uscendo veramente bene, poi magari fammi sentire anche l'Inuit, il Midland, insomma tutte quelle che ti ho portato stamattina. Arrivi veramente molto bene, sì, radio 5, segnale oltre 9 più 10, va benissimo. Claudio, beh. È fuori frequenza. Non è fuori frequenza Marco, che sta pompando, non è fuori frequenza. Va benissimo, io l'ascolto benissimo, sto andando con il Galaxy, lo sento benissimo. Ciao Marco, buongiorno, ben ascoltato. Avanti, riprendi Marco, se vuoi rimanere, se no riprende benissimo. Ria, buongiorno a tutti, per lo più in ascolto. Claudio, ho girato proprio il Coars, fuori, decisamente fuori, devo spostarlo a sinistra per centrarlo. Ciao, Chiodo, ciao Benito. Poi per Benito la differenza era più notevole qua. Qua era 5 con quell'antenna da macchina e 9 modulato con l'antenna Luca Master Cap. Vai Chiodo. Io non la noto molto col gas, forse Marco se ne è accorto un po' di più, però io ti sento bene, non c'è problema. Beh certo, farle, poi Babbo già è esperto, quindi le dai qualche regolazione, fai qualche regolazione, ma comunque sono tutte perfettamente funzionanti, non c'è problema. Avanti Benito. E io mi stavo aspettando perché adesso iniziamo a preparare. Guarda i picchi negativi che c'ha Benito, guarda. Buonasera. Deia. Pronto, a tutti quanti. Ciao Marco, ciao Claudio, non mi viene il nome con la muro. Comunque saluto a tutti. Ciao, vedi, dai, controlla perché c'è anche picchi negativi. E comunque qua è notevole la differenza tra me e Marco. A Marco moduli sul 9, a me non ci arrivi al 9, fai da 5 a 8 e mezzo, capito? Quindi è notevole, però non vedo questo grande incremento a pressione antenna esterna, non lo so, comunque non sono problemi miei, risolviteli, ok? Ciao Beni, buona giornata, buona domenica, alle prossime. Avanti Chiodo, staccala quella, fammi sentire o l'Inuit o il Midland a vedere come vanno, Claudia, ce la fai? Io con frequenze metro quale grado sono 0,75, ti sento un pochino più compresso, ma forse come arrivi a me sei 9 più 20 abbondanti adesso, quindi non lo so. Però dare una controllatina magari con tuo padre, vedete un pochino se c'è qualche regolazione da fare, qualcosa su quello lì, perché non è che l'ho usata molto quella radio, io usavo molto il Midland e l'Inuit, capito? Quindi goditi quelle, Claudie, che vanno molto bene, soprattutto il Midland è una scheggia, va molto bene, poi anche le altre, anche il Pony, anche insomma, vedi un pochino, ma se mi fai sentire il Hall 574 o l'Inuit, voglio vedere com'è la modulazione, ok? Avanti Marco, cambia intanto tu, Claudio. Rientrato! Ciao Gianni. Sì, ho notato Claudio i picchi negativi di Benito, però passava da circa 9 a 8 quasi, proprio se ne scendeva indietro e non era proprio a picco, è come se ci fosse un fading continuo del segnale da 9 a 8, da 9 a 8, però non a colpo non col colpo immediato. Vai Gianni. Cappa, adesso sono arrivato adesso lì, ero a Platamona, a Porto Torres, sono fatto un bel giro, c'era una bellissima giornata, Marco. Noi volevamo andare a pranzo verso le 2:30 in campagna, però sai cos'è? Che a parte il pranzo, poi mia zia si mette a zappare, a lavorare in campagna, noi siamo praticamente lì poi buttati a non far nulla. Insomma, alla fine passi una serata così a non far nulla e stiamo decidendo se è il caso, decidendo, capito? Vediamo se Claudio ha cambiato apparato, vai, Chiodo. Aspetta, sta cambiando la radio, quella che gli ho dato io, a vedere, che voglio sentire la modulazione. KK, no, una bella giornata, infatti mi ha chiamato mia figlia, Cialghiero, c'è una giornata splendida, il grecale tocca meno rispetto a Sassari e si sta molto bene. No, sono lì a pranzo a Lido. E dice che si sta veramente molto molto bene. KK, sì, ma qui ho visto Benito picchi negativi e poi l'incremento da 5 a 8 e mezzo, cioè pressione antenna esterna. Non vedo tutta questa differenza, pensavo voleva essere almeno 9 più 10, come insomma dalla mia direzione verso di lui dovrebbe arrivare, però visto non arriva neanche 9, a te ti arriva 9, a me 8 e mezzo, non ci arriva 9. Avanti, vediamo se è rientrato Claudio. Qua ci sei? No, vai già. Sì, alla mia bene sta andando l'antenna. Alla grande. Ecco, andare, adesso sono da un po' che non provo gli omologati, mi sa che attacco gli omologati adesso e li faccio andare, perché sono già da un po' che non li provo, e quindi sono proprio virgili virgili quelli. Ehi, basta lasciarle così come sono, allora, io questo Galaxy sono veramente entusiasta di averlo, a modulare io con una radio del genere, lasciare indietro il K per me vuol dire tanto, però veramente mi piace tantissimo questa, infatti ne ho tolto tutto e ho lasciato solo questa e boh, va bene, vediamo un po' se è rientrato Claudio, se no riprendi tu Marco. È un po' con un po' nasina l'assento, no no, mettilo, aumentalo mai che così deve rimanere, così deve rimanere, avanti Marco. Sì, sì Claudio, confermo, qua è 9 più 5, radio nasina, però qua è centrata, ma prima non era un granché, prima era massimo un kHz di deviazione, capito? Eri indietro di un kHz, non di più, niente di grosso, però me ne sono accorto per puro caso, dai. Va bene, comunque Gianni, doppio room, quando era sotto casa sua era 9.10, nel parcheggio, quindi dietro il palazzo, 9.10 dalla macchina, e da casa è circa 9.25, bene o male quei tre Santiaghi ci sono, cioè bene o male ci siamo, no? Antenna da macchina, antenna base, tre punti S, dai, sempre che stia usando gli stessi watt Gianni. Vai doppio room? Sì, sì, i watt sono gli stessi. I batti sono gli stessi, capito? L'altra è 980 che si usava in macchina, non è un apparecchio omologato. Vabbè, tu sei più vicino però Marco, quindi è chiaro che il segnale lo ricevi un po' più forte, però già c'è un segnalone qua, da casa anche a me è quasi sul 25, quindi no, non c'è problema. La macchina un po' più bassa perché magari rimane più coperta, tu sei più vicino, però gli ho dato 9.5 abbondante, tu gli hai dato 9.10, quindi siamo lì in linea di massima, dai, va bene. Sì, Cla, vai benissimo con l'Inuit, eh? Se lì all'Inuit le metti l'altro, anziché il più 4, il più 5, così con i toni come li stavo usando io, vai ancora meglio, togli quel leggero nasino che c'è, però la radio 5 è perfetta, eh? Avanti. Hola. Aspetta che Gianni sta attaccando l'omologato, riprendi Marco. Eia, Claudio, ti volevo chiedere, poi avevi dato un'occhiata a quel video, anche se è un po' lungo, c'è anche il manuale di istruzione di montaggio, guarda, delle caratteristiche impressionanti questa antenna nuova, ed è il fratello della Sirio, c'erano due fratelli che avevano la Sirio antenne, questo si è separato, e ha voluto fare un'antenna sua, ed è dichiarata per 5 kW continui, è alta dalla cima fino alla fine del tubetto sotto, 7,60 m, e c'è radiali, un quarto d'onda full size, cioè i radiali ce l'ha da 2,70 m, è una cosa impressionante, e se hai visto il diametro e lo spessore anche dell'isolatore in vetrodesina, paragonato a quello della Mantova, quella potrebbe essere veramente l'erede della Mantova. Poi quel ragazzo che ha fatto il video farà un altro video molto dettagliato con prove di laboratorio e prove anche su strada di quell'antenna lì. Io ve l'ho mandata tanto per così, per rendervi, cioè per mettervi al corrente di questo prodotto nuovo, poi vediamo come sarà veramente su strada. Comunque è imponente, veramente impressionante. Sì, sì, io l'avevo già vista Marco, c'ha materiali molto spessi, veramente bella come antenna. Sì, sì, l'ho visto anch'io il video, interessante. No, ma io quando smonto la Mantova da qua era un'altra pulitina, sicuramente è piaciuto quella, ma c'ho anche l'altra già montata, quindi vediamo, insomma, quello che devo fare, ti ripeto, per il momento non sto pensando alle radio, a montare niente, devo sistemare, c'è un sacco di cose da fare a casa, devo prima sistemarmi tutto, poi penserò alle radio, non sarà quello il problema. Avanti, Chiodo, riprendi? E comunque l'ha detto è che non è un'antenna per tutti, che è un'antenna difficile da montare. E ciao, Chiodo Arrugginito, ben sentito, adesso sono con l'omologato, è omologato, non so come stia uscendo, questo qui è il Cobra, quello omologato. Sì, io adesso faccio un po' di QRX, Ok, ho mandato anche il PDF a Claudio Sparviero, poi se lo vuol girare anche per così, per curiosità a chiodo, lui ci fa un'idea di quell'antenna. Sembra un bel prodotto, comunque come ha detto Gianni è complessa, c'è una marea di pezzi da piazzare, tutti acciaio inox e alluminio, non tubetti di plastica, lampioncini di plastica, non è di roba plasticosa. È interessante, dai, naturalmente per chi la può piazzare, perché l'antenna che pesa 6 kg e 7 metri e mezzo oltre di altezza. Va bene, riprendi Sparviero, bianco per me. Già, ma ho sentito un ciucucciù, non so chi sia, avanti che vuole entrare sul canale 10. Sempre solito tran tran, vabbè. Ok, dai, va bene Claudio. No, vabbè, poi babbo, quelle cosettine se le fa, ti ripeto, io non ho toccato niente perché intanto non sono capace, su questo non c'è dubbio, poi non ho nessuna cosa di mettermi a toccare i baracchini perché non mi interessa. Quindi adesso se c'è a fare qualche allineamento, qualche ritocco di smitter, queste cosettine qua le fai fare a babbo. Però lì noi del Midland non c'è niente da toccare, quelle le stavo usando, quindi non c'è niente da toccare. Va bene, riprendi Claudio. Questa è l'ecla, perfetto, va bene, io te le ho date per usartele tu e fare quello che devi fare, io non me ne faccio più niente, quindi te l'ho già spiegato. Mi tengo questa è il K, basta, il resto tanto non ho sala radio da fare nella casa nuova, anche se posso farlo, non c'è problema, non faccio niente perché lì mi devo fare un'altra cosa. E quindi mi tengo una radio giusto per fare due chiacchiere, va bene, però sono contento ce li hai tu e che le usi come piace usarle a te. KK, K di Roger, avanti doppio rum. Anche il Midland è dato, Claudio. Sì, sì. Vabbè. Se si è fatto l'affare, già va bene. No, ho fatto nessun affare, gli ho regalati a Claudio. Gli ho regalati a Claudio il Midland, l'Inoit, il Pace, l'Intec, non mi ricordo più, e il Caravel 2 della Courier. Le ho tutte regalate e poi c'è un'altra cosa da dire, che gli ho dato tutti i microfoni da tavolo, io me ne sono tenuto solo due e basta. Claudio, allora facciamo un affare con te, il Midland me lo dai. Beh, poi ho visto, l'ho fatta reverdiciare, e quel colore che c'era non mi piaceva, quindi è tornata fiammante, tutte le sue manopole sono lucide, perfette, è una bellissima radio, quella poi un 40 canale con l'SSB, 12 volt, quindi una bellissima radio, e non penso già, questa è una cosa che ho voluto dare a lui, perché la sua passione è tanta, e se quelle radio le vendevo, andavano in mano, magari mille difetti, mille problemi, loro c'hanno la passione di queste radio, poi me li hanno date loro e quindi li ho restituite a loro e non ho voluto manco una lira perché io sono fatto così. Com'è chi tratta bene ha tanto, posso avere un carattere anche di merda, ma c'è un cuore sempre più grande di tantissima altra gente che fa il furbo. Certamente non è rifinito a te Gianni, per carità. Però ho voluto restituire tutto a loro e sono contentissimo che ce l'abbiano loro. Almeno so che se le godono e sono appassionati di quel tipo di radio. Tutto qua. Non mi interessa a me realizzare soldi, io non vivo dalle radio. E quindi il regalo più grande che posso aver fatto sia a Claudio che a Gianni è quello di restituirle le radio che ho preso da loro. Tutto qui. Ah, ragazzi, e ognuno la vede come crede, dai. Se è fatta una persona contenta, meglio così. Beh, certo che sì, cosa fai? Ti metti a vedere il radio a 50 euro l'una, 70 euro l'una, perché cosa? Non mi serve niente. Trovate a Claudio, che è un ragazzo appassionato, un ragazzo in gamba, e soprattutto ha voglia di avere queste cose. E quindi le ho restituite a lui senza avere manco una lira. Sono contentissimo. Molto bene, sì, ride la mamma di farsi quell'allineamento di quell'Intec, che va molto bene perché io l'ho usato, quindi va vabbè, c'è questo spostamento, ma per lui è un gioco. Poi ti allini lo Smith di quel pony, l'Inuit e il Midland non hanno assolutamente niente, quel Courier non l'ho manco provato perché te l'ho spiegato, non era il mio, poi non l'hanno voluto per mille motivi. Quindi, anzi, ti devo dare lo spinotto che ce l'avevo comprato per attaccare il microfono. Il patch già c'è, il microfono attaccato lo stesso, insomma, quel lineare, vedete, di dare una controllatina, io non l'ho manco acceso, non l'ho manco provato. Poi, appena ho 5 minuti, adesso metto a posto l'armadio qua, perché mi ho procurato le cassette in plastica, poi vedo se ci sono altre cose che ti devo salire, te le porto, non c'è problema. Ma non penso proprio, ci hanno provato, ma come vedi io non ho avuto nessun problema, e piedi nella lingua a sistemare subito le cose. Quindi ognuno con la bocca può fare tante cose, solo con la bocca, però poi i fatti sono altri. C'è gente che pensa di realizzare denaro nel mondo della radio, io non sono di quelli, io preferisco le cose regalarle, come ho sempre fatto d'altronde, non è che ci sia la prima volta questa, quindi però ho preferito darle a voi perché siete delle persone che a me mi hanno sempre trattato bene, a prescindere da tutti i giramenti, vabbè, ok. Cappa dell'oro, sì, mi devo sistemare questo armadio che c'è qua in stanza ancora, perché è pieno di portatili, di cose, di altri microfoni, di cavi, cavetti, altri veicolari, altre cose che sicuramente a Babbo possono interessare anche la vetrina, e quindi vengono lì. Poi c'è anche il sommergibile, che poi adesso poi già ci sentiamo per telefono con Babbo, non ti preoccupare. Avanti, doppio rum. Se ti avanza un tunnel più 3. No, tunnel più 3 è qua, lo sto usando. Altrimenti non ho altri microfoni, perché non ne ho neanche uno, Gianni. 7 MC, c'è MB più 5, avevo. Quindi è tutto cloud, io non c'ho più niente. Ti ho detto, c'ho un Galaxy col tunnel più 3 e basta. È il 430 che mi è rimasto, del 430, l'alimentatore, il PS50 e l'SP430, il 430 ancora non è arrivato, l'MC60, basta, non c'è altro su questa scrivania già, a tutto Claudio, da là alla zetta. Va bene, riferite voi che devo sintonizzarmi in questo apparecchio, che l'ho messo a 34 canali invece che a 40. Cosa vuol dire? E c'è il menu, capito, secondo la nazionalità dove lo metti ti dà più canali o meno canali. Ah, ho capito, beh, cambiali, mettilo a 40 canali già, siamo a 34. Allora vabbè, anche se siamo sempre dal 10, il 20, il 30, però capita magari qualche passaggio sul 40, qualche prova, è meglio che ce li hai tutti e 40 attivi. Va bene, fai pure. Avanti Claudio. La radio è sempre buona. Sì, sì. Non l'ho fatto io il frontalino, io quando devo valutare le cose le dico, le ha fatte un altro CB che ha più passione di me, non faccio nome, ma comunque ha fatto un bel lavoro. Quando io apprezzo le cose le dico, non sono di quelli che si tira indietro o racconta balle. L'ha fatto un CB, l'ha fatto bene, tutto bello sistemato, allineato, nuovo. E sono contento che è ritornato a te. Adesso ti ripeto, dentro quell'armadio sicuramente c'è qualche altro linearetto di quelli transistorizzati che ne hai necessità, perché con quel valvolare stai lì, accorda, fai, invece quello lo metti e va da solo, e tanti watt sono sempre quelli, un centinaio, 80, 100, 70, insomma non è che cambia molto. Così non hai problemi, capito? Poi dovrei avere anche qualche alimentatore di quelli da 30, 40 ampere, qualcosa del genere, quindi insomma adesso fammi svoltare quella roba lì, ma è roba che ti serve senza problemi. E così te la do. No, quel collezionista che ho dato il DAC, come ti stavo dicendo stamattina, era propenso a prendere un po' di altre radio, però poi mi ha detto, ma quella ce l'ho, quell'altra lì, non me ne faccio niente. Ho detto, ascolta, non ti preoccupare, no, lasciale stare dove sono, già so io quello che devo fare. E lì proprio, come ho chiuso quello, ho chiamato a te e ho detto, cla, sto salendo a portarti su tutta questa roba. E come hai visto stamattina ho mantenuto la parola, perché io ne ho sempre una di parola, e ti ho portato su tutto. Adesso appena libero l'armadio, tutto quello che c'è te lo do, cla, tanto io non me ne faccio più niente, no, non mi interessa. E ogni tanto ti si abbassa la radio, ma stai stai schiacciando bene il microfono. Sì, sì, sì. E beh, sei dentro la scatola, ho tirato anche le scatole, quindi sono proprio nuovi, sono tutti nuovi. Sono tutti nuovi nuovi quei microfoni, non è che li ho messi tutti in fila lì e alla fine a cosa serve avere tutti questi microfoni lì senza usarli, va bene averne uno. Vediamo se è rientrato Doppio Room e poi Gianluna, io chiudo così vado a pranzo. Gianni sta sistemando la radio. Ok Claudia, dai, fai quello che devi fare, poi ci aggiorniamo al telefono con Babbo, così metto un po' a posto queste altre cose, che sto svuotando tutto, e tutto quello che può esserti utile, stai tranquillo che te lo riporto, va bene? Cosa? No, ancora no, chi sei? No, non morirò mai, io non ti preoccupare. Quello che ho regalato a Claudia è una parte di quello che posso ancora avere, Lima 1, ciao, buongiorno, ben ascoltato. Ciao Claudia, buon pranzo e ci sentiamo alle prossime, ok? Ciao Claudia, già ci sentiamo stasera, non ti preoccupare. Ciao Lima 1, alle prossime. E non ti preoccupare che non mi allontano molto io da dove sono, la mia postazione è sempre abbastanza buona, molto probabilmente mi sentirei ancora meglio sicuramente. No, erano delle radio vintage che ne ho tante, quindi le ho date a Claudio perché me le aveva date il padre, quindi doverosamente le ho regalate a lui, no, a me non mi interessa barattare e vendere e guadagnare soldi nel mondo della radio, io sono fatto così, siccome c'ho un bellissimo rapporto con Gianni e quindi le ho regalate a lui, almeno Claudio se le sfrutta, le usa anche perché sono tutte vintage, nuove, perfettamente funzionanti, tutto qua, ma già ne abbiamo ancora, non ti preoccupare, già non rimango a piedi. Grazie lui, non c'è problema, non ti preoccupare, guarda, io sono in campagna, quindi la postazione che ti posso dare è 50 metri dal ripetitore della RAI a Monteoro, quindi non ti preoccupare che ci sentiremo lo stesso. Non c'è problema, io delle radio non mi disperò mai sino a quando campo, so che ne avevo tante, sono radio che praticamente usavo poco, quindi le ho regalate a Claudio, tutto qua, come loro hanno sempre dato a me, io doverosamente ho dato a loro, niente di più. Ciao Luì, buon pranzo anche a te, ben ascoltato, sei 5-5, Rozzieri, nessun problema, arrivi magnificamente bene come sempre. E ci risentiamo sicuramente, e ancora ne ho da fare, sto appena iniziando, quindi no, non ti preoccupare che io sono i nove ancora, poi appena ho sistemato l'altra già la piazziamo l'antenna di nuovo, non c'è problema. Ciao, un abbraccio, buon pranzo anche a te, buona domenica, al limite ci si sente stasera. Un cordiale saluto a tutti quelli che sono all'ascolto sul canale 10 QRT, ciao Luì. Ciao Luì, grazie anche a te che ho tracambiato, non ti preoccupare che con calma già ci sentiamo anche da lì. Ciao Luì, buona domenica, buon pranzo.